Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Vorrei due ali d'aliante per volare sempre più distante. No, è una baracca sul fiume per pulirmi in pace. Non abbiamo le ali, buongiorno da Nicoletta, ma la natura ci ha fornito di un paio di alette. Sono piccole ma straordinariamente utili. Muoviamole. Inspiriamo, espiriamo. Di nuovo. Inspiriamo ed espiriamo. E tra un respiro e l'altro salutiamo il dottor Andrea Franzetti, primario di otorino laringoiatria all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, che è qui in studio con noi. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Bene, inspiriamo ed espiriamo e già qua lo facciamo in continuazione, per cui non ci fermiamo mai, meno male, anche certo. Di notte queste alette continuano a muoversi. Sì, è come il cammino da cui passa tutto per poi andare a livello della trachea, dei polmoni e quindi svolgere tutte le funzioni che la buona aria che entra, o a volte non tanto buona, riesce a farci vivere. E quindi il naso serve a far passare l'aria e a condizionare quest'aria che passa in maniera adeguata a poi arrivare nei polmoni, nella trachea, laddove deve arrivare, la purifica, la umidifica, la riscalda. E poi prende tutto ciò che interessa a noi di quest'aria, per esempio l'olfatto, per esempio il gusto, per esempio tutte queste cose. Chi abbiamo vicino? Avverto una sensazione di acqua e sapone sul fronte sinistro. C'è una donna. Donna? Quella donna è fatta per te, io lo sento. È maledettamente bella. Non è così, io non mi sbaglio, evviva! Le dispiace allora se aspettiamo insieme a lei? No, certo, si accomodi. Grazie. Sai, io avverto una fragranza nell'aria. Non mi dica che cos'è. Sapone o ghilvesista? È impressionante. Beh, impressionare è il mio mestiere. Uno dei miei film preferiti, Profumo di donna. E intanto che respiriamo, dottor Franzetti, annusiamo, catturiamo gli odori, i profumi e anche le puzze, per non far morire di noia le nostre cellule olfattive. Ne abbiamo milioni, certo. Perché tenerle con le mani in mano? Certo, con l'olfatto noi conosciamo noi stessi, conosciamo gli altri. Questo è un fatto fondamentale, a volte inconscio, nella vita di ciascuno di noi. E potrebbe anche essere interessante fare dei test insieme per capire come ci conosciamo attraverso l'olfatto. Per esempio, prima di tutto capire se il nostro olfatto funziona e come lo usiamo. Perché è un senso un po' addormentato. È un senso che a volte noi ce ne dimentichiamo. Ce ne dimentichiamo e ci condiziona la vita, ma noi non riusciamo a capire fino a che punto questo è determinante. Però è determinante assolutamente. Per esempio, se funziona o non funziona, prendiamo un odore forte, il caffè. Allora proviamo a odorare il profumo del caffè e ci rendiamo conto che questo ci suscita delle reazioni, che sono delle reazioni fisiche, psicologiche e quant'altro. Ma come lo usiamo, per esempio? Se noi respiriamo l'odore del caffè e lo sentiamo e poi passiamo in una strada in mezzo dei gelsomini e sentiamo il profumo dei gelsomini, ci colpisce di più, ci resta più nella memoria il profumo del caffè o il profumo del gelsomino? Prima domanda. Perché il profumo del caffè vuol dire che noi lo usiamo prettamente per il gusto, perché il caffè ci rimanda a qualcosa che gustiamo e quindi comporta tutto un certo tipo di personalità. Se ci rimanda invece di più il profumo del gelsomino, vuol dire che noi siamo molto attenti ai profumi e agli odori e quindi lo usiamo in maniera molto più fine. Usa molto di più l'olfatto chi ha più la memoria del gelsomino piuttosto che quello che ha la memoria del caffè. Oppure la difesa. L'olfatto è un organo di difesa. Una volta si percepiva l'odore del nemico, adesso basta capire se si percepisce l'odore del gas o meno. O quello di bruciato. Decisivi. Quando facciamo il soffritto. Decisivi nella vita di tutti i giorni. La terza cosa è la psicologia degli odori, per esempio. Per esempio, noi memorizziamo di più la puzza o il profumo? Se pensiamo al nostro naso, è una puzza o un profumo? Perché un profumo è indice di una personalità aperta. La puzza invece di un problema intrinseco che abbiamo. 800 24 00 24, se volete misurare e testare il vostro olfatto, questo senso primitivo, intelligente, che guida le nostre scelte, condiziona le nostre relazioni. È un senso, dottor Franzetti, che ci fa che fa viaggiare le nostre emozioni. Allora, che dice, dottore? Viaggiamo anche noi, e lo facciamo in compagnia di Paolo Fresu, che ci regala in diretta i profumi della sua terra, la Sardegna, che racconta nel suo libro In Sardegna, un viaggio musicale, Feltrinelli Editore. Ciao Paolo. Ciao a voi, buongiorno a tutti. Ma insomma, che dire, il viaggio in Sardegna è il racconto emozionale, direi, in primo luogo, di questa tournée folle che è stata fatta l'anno scorso per i tuoi 50 anni. Sì, che abbiamo deciso di fare 50 concerti di fila senza mai fermarci, andando in 50 luoghi diversi dell'isola che mai erano un centro abitato, per intenderci, ma erano i nuraghi, le prigioni, gli ex conventi, abbiamo suonato sugli alberi, sull'acqua, insomma, nei luoghi più disparati, portando in Sardegna 250 artisti da tutto il mondo, che sono i musicisti con i quali ho avuto l'onore di condividere il palcoscenico in 30 anni, non solo quelli del jazz naturalmente, ma anche Ornella Vanoni, Paola Turci, ma gli attori come Lella Costa, Scagno Celestini, gli scrittori. Insomma, è stato un viaggio alla scoperta un po' di una Sardegna diversa, che non è naturalmente quella super conosciuta delle coste, ma quella dell'interno, che è poi bellissima. E insomma, di odori e di sapori ne abbiamo. Perché in questi due mesi di musica, spostamenti, sorprese, emozioni, chissà quanti profumi. Regalacene qualcuno, Paolo. Beh, naturalmente i profumi della nostra macchia mediterranea, che sono assolutamente straordinari. Poi scrivo nel libro che la Sardegna è veramente quasi un continente, nel senso che per noi già le distanze sono un concetto, 50 chilometri sono un'infinità, ma in fondo è vero, i sardi pensano questo, perché se si parte da Porto Torres e si scende a Cagliari tagliando sulla strada principale che è la Carlo Felice, o meglio ancora si passa, come dire, nelle strade che sono vicine al mare, proprio cambia completamente la vegetazione, si passa dai luoghi più brulli a quelli più verdi, c'è un'ogliastra verdissima che sembra di arrivare veramente in un altro pianeta, e tutto questo porta non solamente a delle sensazioni visive estremamente forti proprio per la loro varietà e per il loro contrasto, ma proprio anche agli odori, che sono molto molto forti, un po' come credo molti l'abbiano provato arrivando in Sardegna con la nave piuttosto che con l'aereo, quando si inizia a sentire il profumo di Sardegna, un po' come il profumo dell'India, l'odore dell'India, l'odore dell'Africa quando ci si avvicina alla costa. Penso che siano delle sensazioni, sentivo le vostre chiacchierate di prima, che rimangono veramente dentro come un qualcosa di veramente molto forte. Poi i miei sono i profumi dell'infanzia, naturalmente, che sono sempre legati alla terra, perché io vengo da una famiglia di terra, di contadini e di pastori, e quindi ho passato un'infanzia, devo dire, felice proprio in campagna. E assolutamente profumata. Così come un accordo musicale, l'accordo di un profumo contiene quattro essenze o note accuratamente selezionate in base alla loro affinità armonica. Ciascun profumo contiene tre accordi, la testa, il cuore e la base, e quindi fanno 12 note in totale. L'accordo di testa racchiude la prima impressione, dura pochi minuti, prima di lasciare il posto all'accordo del cuore, il tema dominante del profumo, che dura alcune ore. E infine l'accordo di base, la scia del profumo, che dura alcuni giorni. Paolo, note olfattive, note musicali, possono essere compagne di viaggio? Ma assolutamente sì, perché le note profumano, sono completamente d'accordo, e hanno un profumo diverso a seconda del loro colore, della loro intensità. Un suono racconta veramente un mondo, e racconta, cioè, come dire, siamo in grado di raccontare veramente noi stessi più che con le parole, con i suoni, perlomeno perché questi, come dire, non necessitano un pudore che alcune volte soprattutto le persone timide come me possono avere manifestandosi attraverso le parole. Ma riflettevo sul fatto che il mio ritorno al suono, se io dovessi pensare alla musica, ho un ricordo precisissimo, quasi una sorta di Madeleine, per quello che riguarda l'odore, perché da piccolissimo, ho iniziato a suonare da molto piccolo, seguivo la banda per strada. Quando passava la banda io uscivo e la seguivo, perché il mio sogno era di suonarci. E mio fratello prima di me aveva suonato la tromba nella banda e poi aveva smesso, io vedevo a casa questo strumento, il mio sogno era di poterlo toccare e di poterlo suonare. Io ricordo perfettamente come fosse ieri l'odore dell'olio dei pistoni, che è un odore acre, un odore forte, che veniva, insomma, che per me era un mondo che si apriva, questa tromba che era dentro una custodia di legno nera con un velluto rosso pungente, fantastico. E ancora oggi devo dire, quando penso alla musica, penso a questo odore così forte, così bello, che mi ha accompagnato per tutta la vita. Paolo, quindi il profumo della musica è il profumo anche di un sogno. Ma Paolo, a proposito di profumi e di odori, quelli buoni piacciono a tutti, ma ce ne sono alcuni che piacciono a noi in modo particolare. Sono quelle piccole passioni olfattive, anche un po' strane, l'odore dello smalto, della benzina. Tu hai una passione olfattiva particolare, proprio solo tua, che vuoi confessarci? Beh, l'odore della benzina credo che appartenga un po' a tutti. No, ed è un po' anche la rappresentazione, come dire, della contemporaneità di oggi. Continuo, ci riflettevo adesso, è sempre qualche odore che ha a che fare con la mia infanzia, perché poi penso che gli odori, come dire, rimangano lì attaccati a quelle sensazioni così forti che abbiamo vissuto da piccoli. Per esempio sono gli odori noi avevamo i maiali, in campagna, e naturalmente, come dire, più che un odore lo chiamerei un olezzo, sì. Come dire, non è che fosse straordinario, ma quella cosa lì mi piaceva tanto perché sapeva di terra, sapeva di infanzia, sapeva di quel luogo magico che era la terra dove io di giorno andavo a giocare, dove mio papà lavorava, che era fatta con queste pietre bellissime di granito dalle forme più strane che diventavano il mio racconto creativo, una sorta di libro da scrivere. Ecco, quell'odore lì, per quanto non fosse bello, lo diventava nel momento in cui era l'anticamera di una sorta di prefazione di un grande libro ancora da scrivere. Questo è, trovo che sia molto bello. Paolo, io ti ringrazio per essere stato con noi. Ricordo il titolo del tuo libro con cui hai festeggiato i tuoi 50 anni. Speriamo di poter festeggiare con te in Sardegna i 60 concerti ogni 10 e di viaggiare un po' con te. Intanto possiamo viaggiare in Sardegna leggendo proprio le pagine del libro di Paolo Fresu, un libro che devo dire straordinario, perché ti porta proprio, ti fa immergere in questa terra magnifica raccontata d'arte. Grazie a Paolo per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Ciao, ciao. 800 24 00 24, avete una passione olfattiva? Volete raccontarcela? Anche se vi pare strana, l'inchiostro, lo smalto, la benzina, ma soprattutto testate un po' il vostro olfatto. Il dottor Franzetti ci ha dato degli spunti. Sentiamo gli odori forti? Caffè, gelsomino? Avvertiamo quelli che possono aiutarci a evitare un pericolo? Segnalano un pericolo? Il gas, ad esempio. E poi riusciamo a legare subito a un'immagine una puzza ed un, perché ormai le puzze le cancellano tutte, ma ci sono, avranno anche loro, no, dei vantaggi le puzze, dottor Franzetti? Assolutamente sì. E abbiamo le cellule olfattive che le catturano. Certo. Puzza e invece profumo gradevole? 800 24 00 24, dottor Franzetti, ci sono anche degli odori che irritano le mucose del nostro naso? Assolutamente sì, perché gli odori fanno parte di una parte gassosa che contiene una soluzione chimica. Quando questa soluzione arriva a contatto o con la mucosa in modo particolare, o con le terminazioni che si chiamano trigeminali, o con le terminazioni olfattorie all'interno del naso, possono scatenare tre tipi di sensazioni diverse. Cioè possono scatenare quello che è una bruciore, una sensazione di secchezza, oppure possono scatenare un aumento della secrezione nasale in maniera importante, fino a scatenare anche un dolore vero e proprio, una nevralgia, oppure quello che noi chiamiamo delle cacosmie, cioè una distorsione dell'odore, cioè un odore che fino a quel punto lì si era percepito in un certo modo cambia completamente in una determinata circostanza. Dottor Franzenti, intanto che aspettiamo le passioni olfattive dei nostri ascoltatori, che raccontano molto di noi, come ci ha raccontato anche Paolo Fresu, io volevo chiedere a lei quali sono le cause di una riduzione dell'olfatto. Io ho qua davanti un libro che mi ha portato il dottor Franzetti. Sì. Temo che sia abbastanza tecnico, perché l'hanno fatto i Dutour, come si dice. Sì, soprattutto l'ha curato l'amico Matteo Ricchicchi, che è primario Fate Bene Fratelli di Milano. Ecco, l'olfatto è il senso dimenticato, sì. Ma anche l'olfatto a cui noi cerchiamo di rendere un po' la vita impossibile, perché cerchiamo di così abituarlo sempre agli stessi, lo facciamo lavorare poco. Ecco, ma il nostro olfatto può essere anche in qualche modo educato? Certo. O come possiamo capire se ci sono dei problemi che possono, anche nella struttura del nostro naso, che possono in qualche modo metterlo in difficoltà? Ma noi, come tutti i sensi, ce ne accorgiamo quando non funziona, di solito. Sì, certo, basta un raffreddore, no? Certo, perché basta qualcosa che impedisca all'aria di arrivare a livello delle cellule olfattorie. Oppure ce ne accorgiamo in maniera più duratura, perché nel tempo, piano piano, certi odori non li sentiamo più. E allora a questo punto può essere legato non tanto a una problematica nasale, ma a una problematica più di tipo, diciamo, quasi neurologico, cioè come un affaticamento o qualcosa che succede a livello delle cellule olfattorie, oppure dei bulbi olfattori, oppure a livello della corteccia cerebrale. Marco ci chiama da Lecco all'800240024. Buongiorno, buon naso. Buongiorno a lei e al dottor Franzetti. Buongiorno. Io sinceramente ho proprio un buon naso, nel senso che ho l'olfatto molto sviluppato. Sento molto i profumi e volevo portare la mia esperienza in fatto di profumi d'altri tempi. Sì. Ho 42 anni e appena si mette a piovere che sento il profumo della terra, è uno dei profumi che mi piace tantissimo, che mi riporta alla mia infanzia, per esempio. Quindi come la nostra memoria lega l'olfatto con la memoria, volevo qualche informazione dal dottore, insomma. Pensi che succede questa cosa, 42 anni non è che da altri tempi, perché è giovane, ma immagini una persona che ha 85 anni, dove la sensazione olfattoria dell'oggi è sicuramente ridotta perché c'è un leggero decadimento neurologico, perché c'è un leggero decadimento della parte periferica delle cellule olfattorie, perché il naso sicuramente ha una situazione che non è più ottimale. Quindi magari fa fatica a sentire l'odore di adesso, però gli odori, quelli che lei dice della sua storia, sono gli odori che appena appena passano, anche in maniera appena accennata nell'ambiente, immediatamente li suscitano una vita. Questa cosa qui non la perderemo mai. Questa è straordinaria, perché basta un profumo, un odore anche sentito, proprio anche appena accennato, che subito ci permette di tirare fuori il file dalla nostra memoria. Alessandro, buongiorno, da Vercelli, benvenuto. Buongiorno, grazie a voi, grazie. Cosa ci fanno usare lei, Alessandro? Sono stato gentilmente contattato e volevo unirmi a voi per questa trasmissione sugli odori o sui profumi, a seconda di uno come li considera. Io volevo dire questo, ecco, un odore o un profumo, a seconda delle sensazioni che riceviamo, che apprezzo molto, è l'odore della pelle della mia compagna, per esempio. Eh sì. Immagino, perché l'odore della pelle, noi spesso lo copriamo perché la pelle viene lavata, idratata, ma soprattutto quella delle persone che amiamo, penso anche alla pelle dei bambini che ha un profumo tutto particolare, dottor Franzetti, è un profumo molto sottile, che è il profumo un po' dell'amore, dell'affetto, perché ci fa rivivere delle sensazioni, delle emozioni delicate e al tempo stesso intense. Sì, non è soltanto un profumo psicologico, ma è un profumo reale, è un profumo che si differenzia per esempio per razza, che si differenzia per età, che si differenzia per cultura, che si differenzia in base al lavoro che facciamo. C'è chi ha addosso l'odore del proprio lavoro o il profumo del proprio lavoro, no? Perché se uno sforna brioche la mattina presto, sì, lo incontriamo per strada, ce lo mangiamo. E d'altra parte le persone si scelgono a naso ma anche a pelle. Assolutamente, assolutamente. E rientrano in azione anche i feromoni. Assolutamente, assolutamente sì. Allora, adesso, cari amici, in alto i nasi, voglio invitarvi di andare sulla pagina di Essere Benessere, sul sito di Radio 24, e compilare il questionario di Mangia con me. Molti di voi l'hanno fatto, potete farlo anche ora. È un modo anche un po' di valutare il nostro stile alimentare. Mangia con me sta così elaborando delle nuove idee, qualcosa bolle in pentola, ma c'è qualche cosa pronto già adesso per voi. Per chi manderà, sentendo questo suono, un sms al 349-238-6666 con la mail con cui ha compilato il questionario di Mangia con me, potrà ricevere a casa Sugar Box. Laura ci chiama da Napoli all'800-24-0024. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Senta, io avevo ho una domanda, perché mia madre ha perso l'olfatto in vecchiaia e volevo, appunto, siccome ho sentito che questo può succedere, il dottore ha detto proprio questo, volevo, che poteva essere legato a un problema del naso, a un problema neurologico, volevo sapere se si poteva fare qualcosa per evitare la perdita dell'olfatto. Quindi una sorta di mantenimento, di allenamento per il nostro olfatto, dottor Franzetti. Ma allora, intanto, se è riferita alla mamma, adesso non so quanti anni abbia la mamma, sicuramente bisogna valutare due cose. Uno, se c'è una problematica nasale o se non c'è una problematica nasale. Verosimilmente non c'è una problematica nasale e quindi... per la mamma in questo momento, se non c'è una problematica nasale vera e propria, è difficile ipotizzare una possibilità di recupero dell'olfatto se questo riguarda la parte nervosa dell'olfatto. Mm. Anche se è vero che per esempio all'Università di Bologna o in altri centri si stanno iniziando a fare delle ricerche anche abbastanza avanzate sull'utilizzo di cellule staminali per la rigenerazione della cellula nervosa olfattoria. Ma adesso non so quanti anni abbia la mamma, però non so se arriveremo in tempo a poter utilizzare in maniera sicura questo sulla mamma. È vero un'altra cosa, che è stato scoperto che nella mucosa olfattoria del nostro naso c'è una concentrazione impressionante di cellule staminali nostre, sì, che possono essere differenziate in cellule olfattorie e anche in altre cellule dell'organismo, per cui si è anche studiato che cellule prelevate dalla mucosa staminale magari un domani possono essere utilizzate per altro, e questa è una ricchezza che abbiamo noi, una recente scoperta. Per quanto riguarda l'allenamento, il mantenimento, secondo me bisogna proprio aiutare la mamma a risentire prima di tutto gli odori che lei gradisce di più, sì, perché questi sono quelli con cui più facilità, e quindi può farlo, percepisce, anche la nostra ascoltatrice, per, certo, tenere il suo olfatto. Mettete il naso, ficcate il naso, e questo serve anche per entrare in rapporto di più con la mamma. Senta, dottor Franzetti, e quindi anche evitare molto gli odori artificiali e chimici? Allora, gli odori artificiali forti o quelli chimici sono quelli che irritano di più il naso, alcuni detersivi per esempio, no? E questi sono dannosi perché alla lunga possono anche arrivare a bruciare le mucose. Ci sono dei messaggi molto carini che mi state mandando, 349-238-6666. Mi scrive Chiara: il mio naso è diventato un po' suscettibile dopo le tre gravidanze, quando ogni profumo mi provocava nausea. Da allora non sopporto molti profumi artificiali, né sugli altri né su di me. Mentre non mi dà nessun fastidio l'odore della pelle, anche sudata. Il mio odore preferito però è quello dei miei bambini appena svegli, quando sanno ancora un po' di notte. Mentre Paolo mi scrive: da piccolo annusavo i vestiti di mio padre per sentire l'odore che io chiamavo odore di papà. Leggo dentro i tuoi occhi da quante volte vivi, dal taglio della bocca, se sei disposto all'odio, all'indulgenza. Nel tratto del tuo naso, se sei orgoglioso, fiero oppure vile. Grande, piccolo, corto, lungo, dritto, storto, pronunciato, delicato, aquilino all'insù, il naso, secondo la fisionomica, fornisce indizi per individuare la personalità del suo possessore, ma fa di più. Ci dice ad esempio se chi lo porta in giro a spasso è in equilibrio, Osservatelo quindi, in linea con noi, abbiamo il professor Ernesto Di Pietro, osteopata e professore di biomeccanica della colonna vertebrale. Buongiorno professore, bentornato. Grazie, buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori e ai suoi ospiti. Professore, non c'entra l'estetica, ma il nostro naso ci dice che? Ah certo, no, l'estetica no, ognuno il suo naso, è guai a toglierglielo perché ci dà, a ognuno dà la propria impronta, ecco. Però lì, all'interno del naso, che cosa protegge quello che noi vediamo all'interno? Due bei canali d'aria che ci riforniscono di aria che poi va nei polmoni, questo sappiamo tutti poi a che cosa serve. E sono quei due canali che sono ben importanti, una destra e una sinistra, che devono essere belli, liberi, per intenderci, i due setti non devono essere possibilmente deviati, dovrebbero essere belli liberi, in modo da dare sia a destra che a sinistra più o meno la stessa quantità d'aria che arriva nel nostro interno e che poi impariamo a gestire. Il problema è proprio quando invece questa differenza si crea tra destra e sinistra, che può essere per un motivo proprio meccanico dovuto a un colpo preso, a mille cose, ma ci sono esperti, molto più esperti di me in materia, che lei ha in studio, e quindi deviazioni del setto, oppure magari banalmente al naso tappato, magari in una sola narice, piuttosto che in due. Perché? Che cosa succede? Ma succede questo, ma se vuole glielo spiego con un esperimento facilissimo che si può fare e sì, spiegare anche per telefono. Lo faccio fare anche al dottor Franzetti. Va benissimo. Dai che ci siamo. Allora cosa dobbiamo fare? Voi fatelo pure seduti, però se qualcuno riesce a farlo in piedi è meglio. Allora, verificate che rilassate tutta la muscolatura, non usate la bocca, ma portate dentro l'aria attraverso le narici e tappate una narice, facciamo che tappiamo tutti la narice destra. Sì. A questo punto, con i muscoli molto rilassati, inspiriamo un gran bel respiro, tantissima aria. Vi accorgerete, provate a percepire, che andate in una piccola rotazione con il busto. Praticamente ruotiamo, ma questo è ovvio, proprio perché l'azione meccanica dei nostri muscoli per portare dentro tanta aria, avendo una narice tappata, cerca di dare molta più aria alla narice libera e quindi va in rotazione. Provate. Ha provato? Proviamo, provate, sì, riprovato. A parte che Nicoletta ha avuto un po' di problemi sulla destra e la sinistra, ma fa niente. Ma perché sono mancina io, devo scrivere. Allora provate, tappate la narice destra, lei non faccia la spia, adesso io ho imparato qual è. Queste rotazioni continue possono alla fine in qualche modo... Sì, allora possono ovviamente dare dei problemi che sono all'inizio muscolari, per carità di Dio, ma portare persino un dolore a una spalla, che può essere poi vissuto come una periartrite, per esempio. Magari non è una periartrite, ma abbiamo la netta sensazione di avere proprio dolori forti che dipendono da altro. In realtà sono proprio queste micro rotazioni continue che poi passano da sole quando il naso comincia a liberarsi. Quindi un buon motivo in più per tenerlo pulito con i lavaggi nasali, sì, che il dottor Franzetti ci ha insegnato tante volte, che trovate come sempre sul sito di Radio 24. Ma professor Di Pietro, se il naso condiziona la nostra postura, non possiamo usare questa sua dote a nostro vantaggio? Assolutamente sì. Il vantaggio grande che ci può dare questo è che quando abbiamo il mal di schiena, io molte volte mi trovo a dire, se avete mal di schiena andate a farvi vedere dall'oculista, andate dal dentista, ma andate anche dall'otorino, perché sono tante cose che ci possono permettere poi di capire, perché siamo in rotazione, e risolvere tanti problemi, diminuendo magari tanti farmaci per i dolori che magari iniziano poi a fare meno effetto. Questo quindi è molto importante da capire. Come possiamo anche accorgercene, sì, se un dolore alla spalla è dato da questo? Se abbiamo il dolore alla spalla destra, spalla sinistra, non importa, dove abbiamo il dolore alla spalla, nel muoverla, proviamo a aprire un pochino la narice, proprio avere la sensazione che entri più aria. Con una mano, con un dito schiacciamo un punto molto preciso che è dalla parte dove abbiamo il dolore, sì, dove c'è il canino, il dente canino. Quindi al lato del naso, al lato dell'aletta. Bravissima. A proposito di alette con sì. cui abbiamo. Quindi sì. allarghiamo una narice con l'altro dito, sì. Facciamo una pressione al lato dell'aletta del naso sopra il canino sì, e vediamo. Se il dolore diminuisce un pochino, anche solo un pochino, vuol dire che è proprio il caso di fare un salto dall'otorino, che non ci visiterà la spalla, ma andrà a notare se c'è qualche problema, ovviamente, di sua competenza all'interno della nostra respirazione. Grazie, professor Di Pietro, per essere stato con noi. Buonissima giornata. A voi, arrivederci. Salve. Abbiamo in linea con noi Linda da Lucca. Buongiorno, Linda. Nicoletta, buongiorno, è un piacere parlarti e grazie per la compagnia che ci fai tutti i giorni, che è veramente gradevole. Grazie. È interessante. Nicoletta, io volevo parlare un pochino, prima passare le cose diciamo di quando ero piccola. Sì. E mi è rimasto molto impresso il profumo dell'erba tagliata e ogni volta che sento l'erba tagliata... È un tuffo al cuore. È una cosa veramente che mi riporta indietro nel tempo, da piccola. Ed ancora più piccola, quando venivamo a Lucca, perché io venivo dall'Inghilterra, sì. Venivamo a Lucca e tagliavano l'erba lungo il fiume e c'era pieno di mentuccia ed era un profumo stupendo. E venendo diciamo più avanti, devo dire che mi rimane anche nel cuore il profumo di mio marito. Specialmente, guardi, un particolare, sotto sì. all'ascelle, siccome è un uomo che suda pochissimo, non usa profumi né niente, ma ha un odore che è veramente buonissimo, è una cosa... Un marito da mangiare di baci. Veramente. Dottor Franzetti, Linda usa il suo olfatto e lo usa, è un olfatto assolutamente allenato e sfrutta la componente più la componente emotiva che quella gustativa. Assolutamente sì, è una che utilizza l'olfatto come componente importante del conoscere le cose, la realtà. Tiziana ci chiama da Conegliano, mi saluti Luca. Tiziana, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, buongiorno. Ci racconti. Allora, io sono una podista, corro a piedi, faccio maratone, sono una sportiva. Sì. E nella zona qua del Coneglianese abbiamo le colline che adesso sono fra... le viti che profumano appunto con i fiori, sì. c'è la siepe di caprifoglio, c'è il gelsomino, e io ho dei punti di riferimento dove so che quella salita mi porta a quel tipo di profumo e a quel tipo di premio, proprio è un premio che mi do. Ma questo è bello perché fa una sorta di mappa olfattiva, possiamo provare anche noi ad abbinare a dei luoghi che noi magari no, frequentiamo con una certa abitudine il profumo, e se non lo avvertiamo cercare di andarlo a trovare, dottor Franzetti. Possiamo, grazie Tiziana per questa strategia, no? Di allenamento per il nostro olfatto. Assolutamente, ci sono anche proprio delle persone che per rendere più gradevoli alcuni ambienti tipo quelli di lavoro mettono dei fiori profumati o comunque degli odori o dei profumi che rendono che colleghino un profumo all'ambiente per poter anche essere più serenamente in un determinato posto. Dottor Franzetti, abbiamo capito che per godere, per immergerci in questo mondo pieno di profumi, di puzze, di odori che ci piacciono, che rimandano dei ricordi, il naso deve funzionare bene. A volte va in crisi, ci sono, come diceva il professor Di Pietro, nasi che si tappano, ad esempio, solo da una narice. Cosa può essere? Sì, se è solo una narice che è sempre chiusa, è sempre quella, verosimilmente il tipo di anomalia che ha quel naso è o una deviazione del setto o comunque una chiusura di tipo anatomico fisso che va valutata e può essere riscontrata molto facilmente facendo un piccolo esame con una fibra ottica. Che non fa male, un tubicino che si mettono nel naso, sì, vero? Si entra con una specie di matitina, si guarda. Che ha una lucina. Che ha una fibra ottica con una lucina e basta. Se invece da tutte e due è alternativamente sì. da una parte e dall'altra, a seconda degli ambienti, dei decubiti, eccetera, allora è un po' più difficile da studiare, perché bisogna capire se è legato a una forma che noi chiamiamo vasomotoria, per cui quei palloncini che si chiamano turbinati del naso ci fanno i dispetti un po' di qui, un po' di là, gonfiandosi e sgonfiandosi. Gli spray nasali che spesso utilizziamo quando abbiamo il naso chiuso, possiamo usarli e in qualche modo possono interferire con la salute del nostro olfatto? Allora, possono essere usati per periodi molto brevi, possono migliorare determinate situazioni che non sono risolvibili in altro modo. Se usati a lungo termine, non solo possono dare dei danni all'olfatto, ma possono dare dei danni anche al sistema cardiaco e anche altre forme. Quindi attenzione dove mettete il naso. A non abusare comunque di questi farmaci. Nasi che si seccano, così rispondiamo ad alcuni messaggi al 349-238-6666. Il naso secco. Quando il naso secco, il tartufo è secco del nostro cane, uno dice, noi ci facciamo, no? Magari non sta tanto bene. Ma quando il naso è il nostro a seccarsi? Può essere legato a due cose, a un problema dell'ambiente esterno o un problema generale dell'organismo. Grazie dottor Franzetti, grazie a voi che ci avete seguito e raccontato le vostre passioni olfattive. Vi auguro una giornata profumata e felice, vi aspetto domani.